Salve a tutti ragazzuoli, ragazzuole, lara lì, lara là, patati, patatrac, l'Ancona in Serie A, ma col cazzo che ci riva, l'Ancona in Serie A, ma quando ci riandrà, sti cazzo davvero, ma vi ricordate com'era la storia, mo? Ma è cambiato un sacco di robe, ma l'Ancona in Serie A, ma quando ci ritornerà, ma davvero, ma ragazzi, sai cosa vi dico, io 20 anni fa, ho sgamato la storia anconetana, questa città Ancona, ma che cazzo vuoi fare in Ancona? Cioè a un certo punto ti rompi i cosi, no? Ti rompi i coglioni. E allora ho detto 20 anni fa, oh, sai cosa faccio? Me levo dai coglioni, me levo dai coglioni. E dove vado? Vado a Bahia, Brasile. E così ho fatto. Vamos a Bahia, vamos a Guaira, Lo so, non c'entrava un cacchio proprio la musica con Bahia, proprio niente, la chitarra messicana de Santana, ma sti cazzi, davvero, non c'entrava niente. Comunque, dicevo, 20 anni fa mi sono levato dai coglionfoli e sono venuto qua, così, abbiamo un po' di sole, un po' di mare, però i moscioli qua... Ma dov'è sti moscioli? C'ho una voglia di mangiare i moscioli intanto che... Mamma mia, mamma mia! Yeah. Eh no, dicevo, 20 anni fa ci ho avuto l'occhio lungo, ancora c'ho l'occhio lungo, Infatti adesso sto vedendo una pisciata nel terrazzo, che cappella, oh, mi ha fatto un'altra pisciata nel terrazzo il ca. Non me la guanto più. E vabbè, c'ho avuto l'occhio lungo e sono venuto via, l'occhio lungo perché Ancona, cioè Ancona, cosa fai in Ancona? Oh? Cioè dopo ti rompi. Quando è finita mezza valle, l'estate, io non so tanto da pub, da bar. Boh, ragazzi, poi a me mi piace il caldo, mi piace anche sciare, mi piace anche sciare, però, sai, se si può stare sempre al caldo, magari, ecco, se qualcuno mi pagasse un mese di Madonna del Campio, de Selva de Valgardena, ogni tanto un mesetto de freddo lo farei in quei posti lì, sai, no? Le piste nere, le piste rosse, perché con l'altra a me proprio do coglioni. Vabbè. What's his name, y'all? I can't hear you. What's his name? Let's hear one more time for Victor Wooten. Wooten. E come dicevo, so qui da 20 anni, decennio più, secolo meno, ci siamo più o meno. E così, e se tira avanti, adesso non vi sto a rompere i coglionfoli con la mia vita, che posso, cazzi miei! Però, che vi posso dire, c'è una... qui nel palazzo di fronte, che niente, quant'è? Non è un anno che abita, manco un anno che abita qua nel palazzo di fronte. E questa qui parla al telefono e si sente fino a qui, cioè fino a, io sono in sala, la sento, sento quello che dice, sento tutto. Cioè, ma la tipa sta nel palazzo di fronte, dall'altra parte della strada. Cioè, come cazzo parla questa? Ma perché deve urlare? Cioè, sta al telefono e urla, capito? La la la la la la la la la la. Tutti i giorni fa così la tipa. Tutte le ore no, ma quasi, perché, vabbè. E nel senso, non è che alle 3 della mattina la cevoria, che alle 3 della mattina senti una coscienza. Sai le cane cappuccetti con gli stecchini, no? Sai cappuccetti con gli stecchini, eh? Certo che se ci faceva le 3, sai gli stecchini in tel culo. Scusa, E vabbè, comunque, non si capisce. Questa, non so, alle 9 della mattina... sta a parlare con l'amica sua al telefono in terrazzo e urla, cioè non parla, urla. Alle 3 del pomeriggio sta a parlare al telefono in terrazzo e urla. Alle 10 della sera uguale, cioè magari o prima o dopo la novella, per non essere proprio le 10, però questa non parla, sta signora non parla, è un essere umano che non parla, urla, urla e basta. Thank you. Niente, qui è le 5 del pomeriggio e la luce sta diminuendo. Già, per farvi capire, qui, cioè no, ancora è giorno, però quel giorno che fra un po' è notte, fra un po' arriva. È caldo, oggi è caldo, che non ha piovuto mai oggi, mi pare che non ha piovuto mai. Cioè, vi sto a dire che adesso qui siamo in pieno inverno, a Bahia è in pieno inverno, sarà, non lo so, sarà 24-25 gradi, forse anche di più oggi perché sto quasi a sudare con la maglietta. Che d'inverno io metto la maglietta, d'inverno metto la maglietta a maniche corte. Invece quando qua è estate, primavera, autunno, prima parte d'autunno, sempre a torso nudo. E poi arriva l'inverno. Magliettina perché è freddo, cazzo, è freddo, cos'è che ci metto la magliettina su, sto quasi a sudare, davvero. Fra un po' mi metto a torsolo nudo, a torsolo, capito? A torsolo proprio. Se sta scuri davvero e passa i minuti, se scurisce, che una bellezza. Ne manco le 5 e mezzo. Uè. Oh, però niente, tocca accendere la luce fra un po'. Già mi rompi, oh, però, capito? Cioè mi rompi che in un posto che è caldo arriva a una certa ora, già devi accendere la luce. Ma io non mi sono abituata a sta storia ancora, ho capito? E poi io c'ho gli anni e sto diventando orbolo, capito? Orbolo. E niente, non ci vedo più, fra un po'. E mi dà fastidio tutto. Mi va sugli anni, mi dà fastidio tutto, capito? Mi dà fastidio gli occhi, mi brucia negli occhi. E sto diventando orbolo, porca Eva. Thank you. Tutto chic, devo rispondere al telefono, dopo vi spiego meglio. Dicevo, sto diventando chic, arrivate le 5 passate, cioè perché a me mi va il tè, Adesso io mi faccio il tè, che mi conosce, il sa che io sono fissato col tè. E allora adesso cambio tutto, divento chic perché è l'ora del tè. Quindi vi saluto, inizio a parlare bene, educato. Ci sentiamo dopo. Ciao, bellezze. Thank you. appreciate it. Thank you. E va bene, è diventato ancora più scuro e niente. E da quando sono partito dalle Marche, cioè fino ad oggi, mi è cambiata la vista un bel po', ragazzi. E questo cazzo del computer pure che mi ha rovinato la vita. La vista, cioè vabbè, la vita con la S prima della T, la vista. E così, non è una cavolata, ragazzi, mi ha rovinato, cioè lo vedo. Poi quando arriva una certa ora, la vista mia è diversa, capito? Quando si scurisce, è più sfocata, è sempre così adesso, capito? E più passa gli anni, più mi pare peggio. E niente, la vicina di là, che se spoglia nuda, manco la vedo più bene se non metto gli occhiali. Però se metto gli occhiali, dopo capisce che l'ho messo per guardalia. Che figura del cacchio, no? Però la tipa è una madonna, ragazzi, niente. Quella se spoglia lì, con la finestra aperta, così. No, mica tutte così, ci vorrei, anzi, il contrario. È un caso particolare, però ecco, qualche anno fa la vedevo meglio e adesso è dura, ragazzi. We'll be right back. qui più che se scurisce direi che mi scureggia la vista, inizia a scureggiarmi la vista, capito? Mi se scureggia la vista. Oh, All right. Woo. Good call. Huh. I can recall a group by the name of Fred Wesley and J.B. Woo! Good coach. And I can recall a group by the name of PBLS and the Assembly. And I can remember when we all got together, said, what? Can't you give us some more? Woo! Can't you give us some more? Ooh. Can't you give us some more? Huh. Oh, can't you give us some more? Woo! Can't you give us some more? Somebody. Can't you give me some more? Woo! Can't you give me some more? Love to love. Oh, can't you give me some more? Horns! The horns! Horns! Can't you give me some more? Woo! Oh, can't you give me some more? Love to love. Oh, can't you give me some more? The bridge! Bridge! Gonna love you forever, because you wonderful one. You wonderful one. You wonderful one. You wonderful one. You wonderful one. No. You wonderful one. You wonderful one. You wonderful one. You wonderful one. You wonderful one. You wonderful one. You wonderful one. And sing, I need some money again. I need some money. Come on. I need some. What did you say? I need some good dough. Sing it anyway. I need some. Huh. Woo! Come on! I need some good dough. What? I need some. Let me hear you sing it. I need some. I can't sing, I need some. Basta, basta, ne ho dette tante oggi, basta, oh. Vi saluto, ci sentiamo alla prossima. Lazzaroni, Lazzaroni. Ciao Lazzari.